Il dibattito che seguì fu per ampiezza e sviluppo una vera epitome del corso della vita umana. Né il luogo né il consesso mancavano di dignità. I partecipanti erano i più sottili dibattitori del paese, il tema che li impegnava il più elevato ed essenziale. Il gran salone della casa di Horn mai aveva veduto un'assemblea così rappresentativa e variata. Né mai le vecchie travi di quell'edificio avevano udito sì enciclopedico eloquio. Era una scena invero superba. Crotters stava là, al piede della tavola, col suo caratteristico costume di Highlander, il volto acceso per le brezze saline del Mal di Galloway. E lì, pure di fronte a lui, era Lynch, sul cui sembiante già si leggevano le stimmate d'una precoce depravazione e d'una prematura saggezza. A lato dello scozzese era il posto assegnato a Costello, l'eccentrico, mentre al suo fianco posava massiccia la sagoma atticciata di Madden. Il seggio del residente era in verità vacante davanti al focolare, ma ai suoi due lati la figura di Bannon in costume da esploratore, con pantaloncini di tweed e scarponi di cuoio di vacca conciato, formava un vivace contrasto con l'eleganza floreale e i modi cittadini di Malachi Roland St. John Mulligan. Infine, a capo della tavola, era il giovane poeta che trovava un rifugio dalle sue fatiche pedagogiche e di speculazione metafisica nell'atmosfera conviviale di una discussione socratica, mentre a dritta e a manca prendevano posto lo sconsigliato pronosticatore, fresco dall'ippodromo, e quel vigile pellegrino, lordo della polvere della strada e del combattimento, e macchiato dal fango di un indelebile disonore, ma dal cui cuore fermo e costante né adescamenti, né rischi, né minacce, né degradazioni mai poterono obliterare l'immagine di quella grazia voluttuosa che l'ispirato pennello di Lafayette ha ritratto per l'età a venire. Giova qui affermare sin dall'inizio che il trascendentalismo pervertito, al quale la contenziosità di Mr. S. Dedalus Theo Shep sembrava provare essere egli dedito fuor di misura, è esattamente l'opposto dei metodi scientifici riconosciuti. La scienza, non lo si ripeterà mai abbastanza, si occupa dei fenomeni tangibili. L'uomo di scienza, come quello della strada, deve affrontare fatti concreti ai quali non si possono mettere i paraocchi e spiegarli come meglio può. Possono, è vero, darsi domande cui la scienza per il momento non può rispondere, quali il primo problema avanzato da Mr. L. Bloom, agio di Publ, riguardante la futura determinazione del sesso. Dobbiamo noi accettare l'opinione di Empedocle di Trinacria, secondo cui l'ovaia destra, il periodo post-mestruale, altri asserisce, è responsabile della nascita di maschi? O non piuttosto saranno gli spermatozoi o i nemaspermi, troppo fin qui trascurati, i fattori di differenziazione, o viceversa, come la maggior parte degli embriologi, quali il Culpepper, lo Spallanzani, il Blumenbach, il Lask, lo Hertwig, il Leopold e il Valenti, sono inclini ad opinare una combinazione dei due. Ciò sarebbe, come chi dicesse, una cooperazione, che è uno degli artifici favoriti della natura, tra il nisus formativus del nemasperma da un lato e dall'altro una posizione bene scelta, succubitus felix, dell'elemento passivo. L'altro problema sollevato dallo stesso ricercatore è non meno vitale, la mortalità infantile. Ciò interessa in quanto, come egli pertinentemente rileva, siamo tutti nati nello stesso modo, ma tutti moriamo in modi diversi. Mr. M. Mulligan, dot igen e eugen, Deplora le condizioni sanitarie in cui i nostri concittadini, dai polmoni anneriti, contraggono adenoidi, affezioni polmonari, eccetera, inalando i batteri che si annidano nella polvere. Questi fattori, egli osservò, e gli spettacoli rivoltanti presentati dalle nostre strade, abominevoli cartelli pubblicitari, ministri di Dio d'ogni confessione, soldati e marinai mutilati, conducenti che espongono il loro scorbuto, carogne appese di animali, celibi paranoici, governanti infecondate. Questo, egli disse, era da considerare la cagione di ogni e qualsiasi decadere del livello della razza. La callipedia, egli profetò, sarebbe stata presto diffusamente adottata, e tutti gli adornamenti della vita, musica veramente buona, letteratura gradevole, filosofia leggera, quadri istruttivi, calchi di statue classiche, quali Venere e Apollo, fotografie d'arte a colori di bambini da primo premio, tutte queste piccole attenzioni avrebbero permesso alle signore in stato interessante di trascorrere i mesi intermedi nel modo più gradevole. Mr. J. Crotters, disse Buck, attribuisce alcuni di questi decessi a trauma addominale nel caso delle operaie sottoposte a lavori pesanti nell'officina e alla disciplina maritale a casa, ma la stragrande maggioranza a negligenza, privata o ufficiale, la quale culmina nell'abbandono dei neonati, nella pratica del procurato aborto o nell'efferato crimine dell'infanticidio. A benché la prima, e vogliam dire la negligenza, sia purtroppo indubbiamente reale, il caso da lui citato delle infermiere che dimenticarono di contar le spugne nella cavità peritonea è troppo raro per essere normativo. Infatti, a voler bene considerare, il miracolo sta nel fatto che tante gravidanze e tanti parti si risolvano così felicemente, tutto considerato, e ad onta delle nostre imperfezioni umane, che spesso tendono a frustrare gli intenti della natura. Una ingegnosa ipotesi è quella facciata da Mr. W. Lynch, Buck Matt, e cioè che sia la natalità sia la mortalità, come ogni altro fenomeno di evoluzione, i moti delle maree, le fasi lunari, le temperature del sangue, le malattie in genere, tutto, insomma, nella vasta officina della natura, dall'estinzione di qualche sole remoto al fiorire d'uno degli innumerevoli fiori che abbelliscono i nostri pubblici parchi, sia soggetto a una legge di numerazione fino ad ora non accertata. Tuttavia, la semplice domanda diretta: perché mai un bambino di genitori normalmente sani e apparentemente sano e debitamente accudito soccombe senza motivo palese nella prima infanzia, per quanto ciò non si verifichi per gli altri figli dello stesso matrimonio, deve certamente, per usare le parole del poeta, farci riflettere. La natura, possiamo starne certi, ha le sue buone perentorie ragioni, qualsiasi cosa essa faccia, e con ogni probabilità tali morti sono dovute a una qualche legge di anticipazione, in base alla quale organismi in cui si siano insediati germi morbosi, la scienza moderna ha definitivamente dimostrato che solo la sostanza plasmatica può essere ritenuta immortale, tendono a sparire a un grado di sviluppo sempre più precoce, disposizione la quale, per quanto possa ledere alcuni nostri sentimenti, e massima e materni, pur tuttavia è, come alcuni di noi stimano, a lungo andare di beneficio alla razza in generale, assicurando in tal modo la sopravvivenza dei più forti. L'osservazione, o forse dovrebbe definirsi interruzione, di Mr. S. Dedalus, Theo Shep, che un essere onnivoro che mastichi, deglutisca, digerisca e faccia apparentemente passare con imperturbabilità plutoperfetta attraverso il canale normale elementi così eterogenei, quali femmine cancrenose e maciate dai continui parti, corpulenti signori delle professioni liberali, per tacere poi di itterici politicanti e monache clorotiche, potrebbe forse trovare un qualche sollievo gastrico in una innocua colazione di Sanatino, rileva meglio da ogni altra considerazione e sotto una luce poco gradevole la tendenza cui alludemmo all'inizio. Per mettere a giorno coloro che non hanno una conoscenza tanto precisa dei minimi particolari del mattatoio municipale, quanto questo esteta dall'immaginazione morbosa e filosofo in embrione, che ad onta della sua tracotante sufficienza nel campo della scienza distingue a malapena un acido da un alcale, men avanto d'avere, è forse da premettere che Sanatino, nella rozza loquela dei nostri tavernieri di infima categoria, significa la carne cucinabile e commestibile di un vitello appena uscito dal ventre della madre. Nel corso di un recente dibattito pubblico con Mr. L. Bloom, adge di Publ, che ha avuto luogo nel parlatorio dell'Ospedale Nazionale della Maternità ai numeri 29, 30 e 31 di Holles Street, del quale, come è noto, il dottor A. Horn, Diplo Inostet, MFMI, è il capace popolare direttore, è stato riferito da testimoni oculari aver egli asserito che quando una donna ha lasciato entrare il diavolo nell'inferno, allusione estetica presumibilmente a uno dei più complessi e meravigliosi tra i procedimenti della natura, l'atto del congiungimento sessuale, essa deve farselo uscire, ovvero sia dargli la vita, come si espresse, per salvare la propria. A rischio della propria, fu la replica definitiva del suo interlocutore, non meno efficace per essere stata detta in tono di moderazione e di misura. Intanto l'abilità e la pazienza del medico avevano portato a un felice accouchement. Era stato un travaglio tanto, tanto lungo, sia per la paziente sia per il dottore. Tutto ciò che la perizia chirurgica poteva fare fu fatto. E la coraggiosa donna aveva virilmente coadiuvato. Sicuro, ella aveva lottato per la buona causa ed ora era tanto, tanto contenta. Coloro che ci hanno preceduto, che avanti a noi sono dipartiti, sono lieti anch'essi nel contemplare sorridendo la commovente scena. Guardatela con reverenza, mentre giace reclina con la luce della maternità negli occhi, con quella brama struggente delle dita del piccino. È davvero uno spettacolo delizioso. Nel primo fiore della nuova maternità, mentre esala una prece silenziosa, a quell'uno lassù, il marito universale. E mentre i suoi teneri occhi contemplano il piccino, non desidera che un'altra sola grazia, e cioè di avere il suo caro Dadi là presso di sé, a dividere la sua gioia e di mettergli tra le braccia quella particella dell'argilla divina, frutto dei loro legittimi amplessi. Egli è invecchiato ora, diciamolo tra noi sottovoce, e ha le spalle un tantino curve, pure col carosello degli anni, una grave dignità gli si è aggiunta al coscienzioso aiuto contabile della banca Ulster, agenzia di College Green. Oh, Dadi, amato di un tempo, fedele compagno di ora e di sempre, mai non potrà tornare la stagione delle rose ormai lontana. Con quel suo caratteristico moto del capo vezzoso, ella rammemora quei giorni. Dio, come sono belli ora attraverso la nebbia degli anni. Ma i loro figli sono riuniti in gruppo nella sua fantasia, al suo capezzale. I figli di loro due, Charlie, Mary Alice, Frederick Albert, se fosse vissuto, Mamie, Bargie, Victoria Francis, Tom, Violet Constance Louisa, la piccola cara Bobsy, cui avevano dato il nome del nostro famoso eroe della campagna sudafricana, Lord Bobs di Waterford e Kandahar. E ora quest'ultimo pegno della loro unione, vero Purefoy, se mai uno ve ne fu, con il genuino naso dei Purefoy. Questa giovane speranza sarà battezzata Mortimer Edward, come l'influente cugino di terzo grado di Mr. Purefoy dell'ufficio governativo della tesoreria al castello di Dublino. E così se ne vola il tempo. Ma il padre Cronio ha avuto qui la mano leggera. No, che non ti sfugga un sospiro dal seno, cara gentile Mina. E Dodi, scuoti la cenere dalla pipa, la radica stagionata, che ti sarà ancora vicino al cuore quando per te suonerà il coprifuoco. E sia ancora lontano quel giorno ed estingui la luce alla quale leggi il libro sacro, poiché l'olio sta per mancare. E così, col cuore tranquillo, via. A letto, a riposare. Egli sa e ti chiamerà quando gli sembrerà opportuno. Anche tu hai combattuto la buona battaglia e hai recitato lealmente la tua parte d'uomo. Signor mio, a me la mano. Bene sta, o buono e fedel servitore. Vi sono peccati, ovvero, per chiamarli come usa il mondo, cattivi ricordi, che l'uomo cela nei recessi più oscuri del cuore, eppure ivi rimangono ed attendono. Egli può lasciare che la memoria di essi s'oscuri, può fare come se essi non fossero mai stati, e quasi convincersi che essi non furono, o che almeno furono diversi. Pure una parola a caso li evocherà ad un tratto, ed essi risorgeranno innanzi a lui nelle più svariate circostanze, in una visione o nel sogno, o mentre il cembalo e l'arpa gli blandiscono i sensi, o nella quiete fresca e argentea della sera, o durante il banchetto, a mezzanotte, quando è già colmo di vino. Non già per insultarlo verrà la visione, come a chi sia sotto il peso della sua ira, né per vendetta a tagliarlo fuori del commercio degli umani, bensì vestita del sudario del passato, silente, remota, ammonitrice. Il forestiero considerava ancora sul volto che gli stava di fronte il lento recedere di quella falsa tranquillità imposta, come pareva, dall'abitudine o da qualche studiato artificio, su parole tanto amare da accusare in chi le proferiva un'attitudine malsana, un flair per i più crudi aspetti della vita. Una scena si stacca dal fondo della memoria dell'osservatore, evocata, si direbbe, da una parola così viva e familiare come se quei giorni fossero reali e presenti, come alcuni pensavano, con i loro immediati piaceri. Un angolo di prato ben tenuto, in una dolce sera di maggio, l'indimenticabile boschetto di lillà a Round Town, viola e bianchi, spettatrici fragranti e slanciate del giuoco che pertanto seguono con vivo interesse le biglie nel loro lento rotolare sull'erba, urtare e fermarsi l'una accanto all'altra con un colpo svelto e breve. E più oltre, attorno a quell'urna grigia, ove talvolta si muove l'acqua in pensosa irrigazione, vedevi un'altra fragrante teoria di vergini sorelle, Floi, Atti, Tini e la loro compagna più bruna con non so quale fascino nella sua posa, Nostra Signora delle Ciliegie, con un grazioso orecchino formato da due di esse, per dar risalto alla calda tinta esotica della pelle, in delicato contrasto con il fresco frutto ardente. Un ragazzetto di 4-5 anni, vestito di bambagina, è la stagione dei fiori, ma benvenuto sarà l'accogliente focolare, quando tra non molto le bocce saranno raccolte e rimesse a posto. È ritto sull'urna, rattenuto da quel cerchio di affettuose mani di fanciulle. Egli s'acciglia un poco, come fa ora questo giovanetto, con un gusto forse troppo cosciente del pericolo, eppure gli è giocoforza a guardare di quando in quando verso il luogo da cui la madre lo sorveglia, la piazzetta che dà sul recinto fiorito, con una lieve ombra di distacco o di rimprovero, alles vergängliche, nello sguardo lieto.